Grazie Michelangelo, transizione di fase. Ovviamente questo è sempre Pink Moon su www.transizionedifase.org e noi siamo sempre dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria e alla prossima. Side on me whilst the wind did blow so wholly, as if I disappeared to thin breathless air drained. Bitter sweet, and sometimes it seems that you lost sight. To where I